Intanto per dar ragione a Mishima, allora quando dice che fra qualche secolo passeremo alla storia come uomini interessati solo a cronache di omicidi, lo diceva in musica, non mi nego allora un'ulteriore considerazione a margine delle pratiche sociali relative ad un delitto di cui si parla e si straparla dal 30 gennaio scorso. La relazione dello psichiatra consulente della procura di Aosta allora ha appurato che l'imputata è compatibile con l'assassino. Si tratta di una metafora biologistica priva di senso alcuno, perché allora quando si tratta di un tessuto organico, i due temi del confronto, il tessuto del donatore e quello del ricevente, sono entrambi presenti, mentre qui no, perché per l'appunto qui l'assassino è l'incognita. Ma tant'è. Ancora più sorprendente è scoprire su quali elementi si basa l'asserita compatibilità. Uno è il fatto che nella credenza dell'imputata sono state ritrovate stoviglie sporche. Un altro è che in tutta la casa, per quanto le forze dell'ordine abbiano rovistato, non è stata trovata neppure una rivista femminile. Il pregiudizio antifemminile ancora una volta è palese. Intanto, in nessun caso ad un maschio si imputerebbe l'assenza per casa di riviste per soli uomini, anzi è trovandogliene che rischia l'imputazione a qualsiasi titolo. E poi risulta chiaro che se una donna non ottempera al servaggio storico che le viene assegnato, pulire per bene ed assorbire la cultura relativa, pulire per bene, mi raccomando, anche nel giorno in cui suo figlio muore con il cranio fracassato, pulire per bene e assorbire la cultura relativa, se una donna non ottempera questi inderogabili principi del suo stato sociale al mondo, come minimo è potenzialmente un'assassina.